Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola, quinta e ultima favola della nona notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. Fior Diana, a cui l'ultimo aringo della presente notte toccava, levossi in piede e allegramente disse: «Signora, mi sarebbe di non picciolo contento quando il signor Feriero Beltramo volesse per gentilezza sua farmi una grazia, per la quale io gli sarei sempre tenuta». Il signor Feriero, sentendosi nominare e richieder la grazia, disse: «Signora Fiordiana, a voi sta il comandare e a me l'ubbidire. Comandate dunque quel che vi piace, che sferzerommi di contentarvi a pieno». La damigella, udita la benigna risposta, prima molto lo ringraziò del suo buon volere, dopo disse: «Altro, signor Feriero, da voi non chieggo, se non che ora, che a me tocca la volta di favoleggiare, in luogo mio una favola raccontate». Il signor Feriero, intesa l'onesta dimanda, in tal maniera diede principio alla sua favola, così dicendo: Favola quinta. I fiorentini ed i bergamaschi conducono e lor dottori ad una disputa, e i bergamaschi con una sua astuzia confondeno i fiorentini. Quantunque, graziose donne, grandissima sia la disaguaglianza tra gli uomini saputi e letterati e quelli che sono materiali e grossi, non di meno alle volte sanno veduti gli sapienti essere stati superati dagli uomini illiterati. E questo chiaramente si vede nelle scritture sante, dove gli apostoli semplici e abbietti confondevano la sapienza di quelli che erano prudenti e savi. Il che ora con una mia favoluzza apertamente intenderete. Nei tempi passati, sì come più volte intesi dagli avoli miei, e forse ancor voi inteso l'avete, erano in compagnia alcuni mercatanti fiorentini e bergamaschi, i quali, andando insieme, ragionavano, come si suol fare, varie e diverse cose. Ed entrando in una cosa nell'altra, disse un fiorentino: «Veramente voi, bergamaschi, per quanto noi possiamo comprendere, siete uomini tondi e grossi, e se non fosse quella poca mercatanzia, voi non sareste buoni di cosa alcuna per la vostra tanta grossezza. Ed avvenga che la fortuna vi sia favorevole nella mercatanzia, non già per sottigliezza d'ingegno, né per la scienza che voi abbiate, ma piuttosto per l'ingordigia e per l'avarizia che dentro di voi si riserba di guadagnare. Non di meno io non conosco uomini più goffi né più ignoranti di voi». Allora facesse avanti un bergamasco e disse: «Ed io vi dico che noi bergamaschi siamo in ogni conto più valenti di voi, e quantunque voi fiorentini abbiate il parlar dolce che porge alle orecchie degli auditori, maggior dilettazione del nostro. Non di meno, in ogni altra operazione voi siete inferiori a noi di gran lunga. E se ben consideriamo, non c'è alcuno tra la gente vostra, o grande o piccolo che si sia, che non abbia qualche lettera. Appresso questo, noi siamo atti ad ogni magnanima impresa, il che veramente non si trova in voi, e se pur si trova, sono pochi». Essendo adunque grandissima contenzione tra l'una parte e l'altra, né volendo i bergamaschi cedere a fiorentini, né fiorentini a bergamaschi, ma difendendo ciascuno la parte sua, levossi un bergamasco e disse: «Che tante parole! Facciamo la prova e ordiniamo una solenne disputa, dove concorre il fior di dottori. E allora apertamente si vedrà quali di noi siano più eccellenti». Alla qualcosa i fiorentini acconsentirono, ma tra loro rimase differenza se fiorentini dovevano andare a Bergamo o bergamaschi a Firenze. E dopo molte parole convennero insieme che se gettasse la sorte. E fatti due bollettini e posti in un vasetto, toccò a Firentini andare a Bergamo. Il giorno della disputa fu determinato alle calende di maggio. I mercatanti andarono alle loro città e riferirono il tutto agli loro sapienti, i quai, intesa la cosa, furono molto contenti e apparecchioronsi di fare una bella e lunga disputa. E bergamaschi, come persone sagge e astute, s'immaginorono di far sì che i fiorentini restassino confusi e scornati. Onde convocati tutti e savi della città, sì grammatici come oratori, sì leggisti come canonisti, sì filosofi come teologi, e di qualunque altra sorte dottori, fecero la scelta degli migliori, e quelli ritenettero nella città, acciò che fussero la rocca e la fortezza nella disputazione contra Firentini. Gli altri veramente fecero vestire di panni vili e li mandarono fuori della città, in quella parte dove passar doveano i Firentini, e gl'imposeno che sempre con loro latinamente ragionassero. Vestiti adunque i dottori bergamaschi di grossi panni e mescolatisi colli contadini, si misero a far molti esercizi. Alcuni cavavano fossi, altri zappavano la terra, e chi faceva una cosa e chi faceva l'altra. Dimorando i dottori bergamaschi in tai servizi, che contadini pareano, ecco venire i Firentini cavalcando con grandissima pompa, i quali, veduti che ebbero quelli uomini che lavoravano la terra, dissero: «Dio vi salvi, fratelli!» A cui risposero i contadini: «Bene venian tanti viri!» I Firentini, pensando che burlassero, dissero: «Quante miglia ci restano sino alla città di Bergamo?» A cui risposero i bergamaschi: «Decem, bel circa!» Udendo tal risposta, i Firentini dissero: «Oh, fratelli, noi vi parliamo volgarmente, e onde procede che voi rispondete latinamente?» Risposero i bergamaschi: «Nemi remini, eccellentissimi domini, unusquisque enim nostrum sic, ut auditis loquitur. Quoniam maiores et sapientiores nostri, sic nos docuerent.» Continuando i Firentini il loro viaggio, videro alcuni altri contadini che sopra la comune strada cavavano fossi, e fermatisi dissero: «Oh compagni, olà, iddio vi aiuti!» Ai quali risposero i bergamaschi: «Et deues vobiscum semper sit?» «Che ci resta fino a Bergamo?» dissero i Firentini. «Exigua vobis restat via?» Ed entrando d'una parola in un'altra, cominciorno battagliare insieme di filosofia, e sì fortemente argoivano i contadini bergamaschi che i dottori fiorentini non sapevano quasi rispondere, onde tutti ammirativi tra loro dicevano: «Com'è possibile che questi uomini rozzi e dediti all'agricoltura e ad altri rusticani esercizi siano ben istrutti nelle scienze umane?» Partitisi, cavalcarono verso un'osteria non molto distante dalla città, la quale era accomodata assai. Ma prima che aggiungessero all'albergo, s'appresentò un fante di stalla, e invitandogli al suo ospizio, disse: «Domini, libetne vobis hospitari?» «Ic enim vobis erit bonum hospitium.» E perché i Firentini erano già lassi per lo lungo cammino, scesero giù di suoi cavalli, e mentre volevano salire su per le scale per riposarsi, il patrone dell'albergo si fece incontro e disse: «Eccellentissimi domini, placetne vobis ut preparetur cena? Ic enim sunt bona vina, ova recentia, carnes, volatilia et alia uius modi.» Stavano i Firentini tutti sospesi, né sapevano che dire, perciò che tutti quelli con quai ragionavano latinamente parlavano, e non altrimenti che se tutto il tempo della vita loro fussero stati in studio. Non stette molto tempo che venne una fanticella, la qual in verità era monaca, donna molto saputa e dottrinata, e a tal effetto astutamente condotta, e disse: indigentne dominationes vostre realiqua, placet ut sternantur lectuli, ut requiem capiatis? Queste parole della fante resero maggior stupore a Firentini, e si misero a ragionar con esso lei, la quale, poscia che ebbe parlato di molte cose, tuttavia latinamente, entrò nella teologia, e tanto cattolicamente parlò, che non vi fu veruno che non la comendasse molto. Mentre la fanticella ragionava, venne un vestito da fornaio, tutto di carboni tinto, e intesa la disputazione che facevano con la fantesca, s'interpose, e con tanta scienza e con tanta dottrina interpretò la scrittura sacra, che tutti i dottori firentini tra sé affermavano non aver per lo adietro mai udito meglio. Finita la disputazione, se ne andorono i firentini a riposare, e venuto il giorno, fecero tra loro consiglio sì partirsi o andar dinanzi doveano, e dopo molto contrasto determinorono partire essere migliore, perciò che se negli agricoltori, se negli osti, se nei fanti e nelle femmine è tanta dottrina, che saria nella città dove sono uomini consumatissimi e che ad altro non attendono che agli continui loro studi? Fatta adunque la deliberazione, senza indugio alcuno, né pur vedute le mura della città di Bergamo, montarono a cavallo e verso Firenze presero il cammino. E in tal maniera i bergamaschi, con la loro astuzia, furono contro i fiorentini vittoriosi. E da quell'ora in qua i bergamaschi ebbero un privilegio dall'imperatore di poter sicuramente andar per tutte le parti del mondo senza impedimento alcuno. Fine della storia. Non senza risa il signor Ferriero pose fine alla sua breve favola, e l'astuzia dei bergamaschi fu da tutti lodata e la viltà dei fiorentini biasimata. E perché la signora conosceva tal ragionamento ridondare in vituperio dei fiorentini, alli quali ella era non poco afficionata, comandò che ognuno tacesse e che il signor Ferriero con lo enimma seguisse, il quale, voltatosi verso Fiordiana, disse: signora, voi mi avete dato il carico di novellare, con poco soddisfamento di tutti. Sarebbe ben onesto e giusto che ora voi toleste il carico di raccontare l'enimma. A me non richiede tale impresa, per non essere io in tal cosa esercitato mai. Fiordiana, che non era pusillanime, ma di valoroso core, disse: signor Ferriero, non ricuso l'impresa, anzi vi ringrazio di quanto per me operato avete. E lietamente così disse: non so qual mia disgrazia o ria sciagura spesso m'induca a sì malvagio porto, che di maschio ch'io son cangio natura e di vil femminella il nome porto. Di punzoni, di busse fuor misura, ognun mi carca sì, che al fin son scorto. Ma peggio ancor m'avvien che a tempo e loco per la vita d'altrui patisco il foco. Perché l'ora era tarda e omai li grilli cessavano di stridere e il chiaro giorno s'approssimava, la signora comandò che Fiordiana lo esplanasse ed esplanato ognuno s'andasse ai propri loggiamenti, ritornando però nella sera seguente, secondo l'usato modo. Ed ella, con leggiadra e lodevole maniera, in tal guisa sciolse il dubbioso nodo. L'enimma da me raccontato altro non dinota che il formento, che ha nome di maschio, poi macinato muta il nome e diviene femmina, che è la farina, e indi, battuta con punzoni, diventa pane e per nutrire l'uomo è cotto nel fuoco. La compagnia, poi che ebbe molto comendata la dichiarazione dell'enimma, si levò in piedi e, tolta buona licenza dalla signora, con gli occhi sonnacchiosi si partì. Fine della quinta e ultima favola della nona notte. Fine della nona notte. Registrazione di Roberto Cofini.